In un triste e noioso pomeriggio di gennaio, alcuni anni fa, una giovane vedova stava seduta sul suo salotto, guardando malinconicamente fuori dalla finestra. Era una bella casa che dava su una moderna piazza di Dublino. La camera era ammobiliata con gusto, tutto indicava comfort e perfino agiatezza, ma la padrona non era felice. La signora Blake era cattolica romana, fervente e coscienziosa nell'osservanza dei precetti della sua chiesa, ma da un certo tempo era oppressa dal pensiero dei propri peccati. Negli esercizi religiosi, nelle penitenze, nelle preghiere le davano sollievo. L'insopportabile fardello rimaneva sulla sua coscienza. Aveva confidato la sua angoscia al proprio confessore e, dietro suo suggerimento, aveva intrapreso opere di carità. Ma, benché queste cose la interessassero e per un certo tempo occupassero la sua mente, il sentimento dei propri peccati pesava sulla sua anima. Il confessore, un giovane prete, gentile e attraente, le diede piena assoluzione, ma neppure questo le recò alcun conforto. Mentre rimuginava i soliti pensieri, sentì bussare alla porta e, prima che avesse tempo di ricomporsi, un visitatore s'era introdotto nella camera. Era padre Giovanni che chiese alla signora: «Che potrei fare per darle conforto e far sparire la tristezza dal suo volto?» «Lei è buono», rispose la donna, «e ha fatto del suo meglio, ma il peso del quale ho parlato grava sempre sul mio cuore. Dia retta a me», disse il sacerdote. «Ho pensato che cosa dovrebbe fare. Domani alla rotonda verrà un uomo, un artista comico, capace di rallegrarla. Vada a sentirlo». Vedendo la donna un poco titubante, il sacerdote incalzò dicendo: «No, silenzio! Non voglio obiezioni, glielo ordino. Dovrà andarci, ci andrà!» Il giovane prete spiegò che una compagnia di trattenimenti, famosa a quei tempi, stava per presentarsi al pubblico e, a suo avviso, quella sarebbe stata la miglior cosa per lei. Ogni protesta era inutile. Non poteva disobbedire al suo consigliere spirituale, che le aveva perfino procurato il biglietto d'ingresso. Così, nel pomeriggio del giorno seguente, la signora Blake andò nel luogo prestabilito, dove grandi cartelloni annunciavano il trattenimento al quale le era stato ordinato d'assistere. La rotonda, come ogni cittadino di Dublino sa, ha più di un locale sotto il suo tetto. Vi è la grande sala rotonda, la sala delle colonne ed altre ancora. Vi sono pure diversi ingressi. Ora avvenne che la signora sbagliò l'ora della rappresentazione e invece di vedere la folla che avrebbe dovuto trovarvisi se fosse giunta all'ora indicata, notò solo una piccola fila di persone che entravano nell'edificio. Seguendole, si trovò in una sala che era la più piccola di tutte e si mise a sedere. Le sembrò strano che nessuno le chiedesse il biglietto, ma ne concluse che la cosa sarebbe stata regolata in seguito. Non ebbe molto tempo da pensare perché quasi subito entrò un signore che salì sulla piattaforma e propose un inno. In un baleno capì di aver commesso un tremendo errore. Aveva sbagliato sala ed era capitata in una riunione protestante. La signora era timida e sensibile. Uscire dal posto le era impossibile. Che fare? Decise di andarsene appena terminato l'inno. Così il movimento sarebbe stato meno osservato. Ma nell'ansietà di far presto urtò con l'ombrello il pavimento e questo rumore attirò l'attenzione di diverse persone che si voltarono. La povera signora Blake, atterrita da ciò che aveva fatto, si lasciò ricadere sulla sedia, desiderando quasi di sprofondare. Ne seguì un profondo silenzio, poi s'udì una voce, quella dell'uomo sulla piattaforma, che pregava. Non poteva fare a meno d'ascoltare, era qualche cosa di straordinario. Non aveva mai udito nulla di simile. Era così differente dalle Ave Maria e dalle altre preghiere del suo libro di devozione. L'uomo aveva un'attitudine così riverente e nello stesso tempo appariva così felice. Mentre pregava, essa ne fu profondamente colpita. Finita la preghiera, l'oratore annunziò che avrebbe letto un passo delle scritture che riguardava il perdono dei peccati, proprio l'unico argomento che avrebbe potuto interessare la signora. Capiti ciò che vuole e padre Giovanni dica e faccia ciò che crede, ma io devo ascoltare questo, disse tra sé. Furono letti 18 primi versetti del capitolo 10 dell'Epistola agli Ebrei e l'oratore li spiegò con parole semplici, in modo che il soggetto divenne chiaro come la luce del giorno. L'offerta dell'unico sacrificio, il perdono libero e gratuito concesso a coloro che lo domandano nel nome di Cristo, ecco la trama del discorso, illustrato da altri passi del Nuovo Testamento. Come la terra arida beve la pioggia d'estate, così quella povera anima riceveva quelle meravigliose verità da lei mai udite prima. Esse cadevano nel profondo suo essere e le davano il desiderio di udirle sempre di più. L'oratore cessò di parlare e dopo un'altra preghiera la riunione si sciolse. La signora Blake sentì che questa era l'occasione unica della sua vita. Raccolto tutto il suo coraggio, s'accostò alla piattaforma e chiese a quel signore di chi fossero le parole che aveva lette. Sorpreso da tale domanda, questi scese per parlare con lei. Essa la salì allora con tanti problemi che gli le propose di scrivere per lei delle referenze di passi biblici da studiare a casa. Quando però seppe che la signora non aveva mai posseduto una Bibbia, divenne maggiormente interessato. «Io le presterò la mia», disse il predicatore. «Legga i passi segnati nelle pagine piegate, ma me la riporti fra qualche giorno. Questo libro è la cosa più preziosa che io possegga». La signora lo ringraziò caldamente e s'affrettò a tornare a casa con la gioia nel cuore ed una nuova luce negli occhi. Quale cambiamento s'era prodotto negli occhi? Quale cambiamento s'era prodotto in quell'essere, arrivato così sconsolato alla rotonda un paio d'ore prima? Per alcuni giorni ogni altra cosa fu dimenticata. Leggeva e rileggeva i passi segnati ed altri ancora. La luce brillava nel suo intelletto. Il peso che per tanto tempo aveva gravato sulla sua coscienza era caduto, e la pace di Dio riempiva il suo cuore e la sua mente. Il tempo di restituire la Bibbia era ormai giunto, e la signora era così profondamente immersa nel nuovo studio da non accorgersi che era stato suonato il campanello alla porta d'entrata. Quando alzò gli occhi, vide che qualcuno era stato introdotto nel suo salotto. Il suo confessore le stava davanti. Questi notò subito i modi impacciati della signora e nello stesso tempo la calma riposante del suo sguardo, a cui egli non era abituato. «Che le è accaduto?» chiese. «Non mi ha ancora detto se le è piaciuto il trattenimento alla rotonda, e siccome non la vidi a messa domenica scorsa temevo che fosse indisposta. Il desiderio della signora sarebbe stato di celare la cosa almeno per un po' di tempo, ma, sorpresa in quel modo, perse il controllo di sé e con la semplicità d'un bambino raccontò tutta la storia, lo sbaglio del locale, il tentativo d'uscirne, le parole udite, il libro imprestato e finalmente la gioia e la pace che riempivano il suo cuore. Parlò tutto il tempo con gli occhi bassi, ma quando li alzò fu agghiacciata dal terrore. L'uomo che le stava innanzi era verde di rabbia. Mai in vita sua aveva visto tanto furore trasparire da un viso. «Mi dia quel libro!» gridò il confessore con voce che pareva un ruggito. «Non è mio!» disse la signora, cercando di trattenerlo. «Me lo dia!» ruggì il sacerdote. «O l'anima sua sarà dannata eternamente!» Quell'eretico l'ha quasi condotta all'inferno. Né lei né lui leggerete più questo libro. Così dicendo, glielo strappò di mano, se lo mise in tasca e, guardandola torvo, uscì. La poverina cadde a sedere, come paralizzata, e udendo il rumore provocato dal chiudersi della porta, le parve che qualcosa si chiudesse pure nel suo cuore, lasciandola sola col suo terrore. Quell'orribile sguardo l'aveva trapassata da parte a parte. Soltanto coloro che sono nati nella Chiesa di Roma possono comprendere l'inaudito spavento che il potere del prete può incutere. Pensò anche a quel signore che le aveva imprestata la Bibbia. Il suo indirizzo era scritto dentro, ma essa non lo ricordava. Tutto questo era grave. Ma oh, quello sguardo! Come rimase impresso nella sua memoria? Trascorsa una settimana circa, la signora Blake decise di arrischiarsi a fare visita al sacerdote e di tentare ancora uno sforzo per riavere il libro. Padre Giovanni abitava ad una certa distanza, in un convento, del quale egli era il confessore. L'uscio fu aperto da una suora che, alla vista della signora, trasalì visibilmente e avendole udito chiedere se il prete era in casa, freddamente rispose: «Sì, padre Giovanni è in casa, si trova in questa camera, non desidera entrare a vederlo». Così dicendo, un po' conduceva e un po' spingeva la visitatrice, la quale ad un tratto gettò un grido acutissimo, poiché si trovò davanti ad una bara aperta, nella quale giaceva il corpo esanime del suo confessore. Prima che si fosse riavuta dalla sgradita sorpresa, la suora le sibilò all'orecchio. Egli morì maledicendola. Lei gli diede una Bibbia ed egli mi incaricò di dirle che la malediceva col suo ultimo respiro. Ora vada. Prima di potersi raccapezzare su quanto le succedeva, la signora si trovò sulla strada e la porta fu chiusa dietro di lei. Alcune settimane erano trascorse e mentre ripensava agli ultimi avvenimenti, la domestica introdusse nella stanza una persona ricoperta da un fitto velo. Prima che la signora Blake avesse avuto il tempo di parlare, questa disse: «Lei non mi riconosce con quest'abito, ma presto mi riconoscerà». Detto questo, alzò il velo e scoperse la faccia. Era la suora, che aveva ripetuto il messaggio di maledizione davanti alla bara aperta. La signora Blake fece l'atto di tirarsi indietro, non sapendo ciò che stava per accadere, ma la visitatrice calmò subito i suoi timori, dicendole: «Mi permette di sedermi e di dirle qualche cosa». Invitata ad accomodarsi, continuò: «Devo dirle due cose, e sarò breve perché ho premura. Anzitutto perdoni la mia colpevole menzogna. Ho chiesto perdono a Dio, ma lo devo chiedere anche a lei. Padre Giovanni morì, benedicendola con tutta l'anima sua. La vigilia della sua morte mi pregò di dirle che per mezzo di quel libro aveva trovato anch'egli il perdono dei suoi peccati e che la benedirà per tutta l'eternità, per averlo condotto alla conoscenza del Salvatore. Ed ora, signora, mi vuole perdonare?» «Certamente, e dal profondo del cuore», rispose la signora stupefatta. «Ma perché quel giorno mi parlò in quel modo?» La risposta della donna fu inaspettata. «Perché amavo lui e odiavo lei, per averlo mandato all'inferno, come io allora credevo. Ed ora, ascolti, sentivo un forte desiderio di leggere ciò che egli aveva letto e, dopo il funerale, non potei fare a meno di guardare io stessa dentro quel libro. Ne fui affascinata e continuai nella lettura. Io trovai pace e perdono. Ho studiato la Bibbia per delle settimane ed ora eccola». Così dicendo mostrò il libro. Poi continuò dicendo: «Sono fuggita dal convento e questa notte salperò per l'Inghilterra, ma sentivo di dover prima venire qui per restituire la Bibbia e per dirle che io pure la benedirò per tutta la vita per avermi insegnato come ricevere il perdono dei miei peccati. Addio. Il Signore la benedica, ci incontreremo in cielo». E detto questo porse la Bibbia sul tavolo, un brevissimo saluto, poi uscì e se ne andò. «È proprio vero che la parola di Dio è potente a salvare ognuno che vi crede». Aprile 2008, Ellero.